Quanti amano Mario? Mamma mia, ragazzi! Facciamo un applauso a questo fantastico responsabile! Abbiamo scelto bene. Chiesa, come stiamo? Buonasera! Ieri ero in un negozio a Mola e mi ha detto sì, io conosco una chiesa a Modugno, è quella nella Stradella, sì! E dice, io sono venuta una volta e sai perché me la ricordo? Dico, perché è molto bella, vero? Fa, no, perché mi hanno abbracciato tutti, proprio ho abbracciato un sacco di persone, quindi siccome noi siamo proprio famosi per questo, perché non abbracci la persona che hai accanto? Abbracciala stasera, dili, ehi, che bello che stiamo insieme, che bello che stiamo in questo incontro bellissimo, che bello che sei accanto a me, le l'hai già detto? Che bello! Chi voglio abbracciare a distanza? Vediamo. Teresa! No, Teresa, Mina! Ti abbraccio. A te. Che bello. Che altro c'è in ultima fila? Non ho gli occhiali, quindi non è che proprio... Vito Lamparelli, ti abbraccio. Sei bellissimo, fratello mio. Sei sempre bello, eh? È vero, quanti amano Vito Lamparelli, può dire che è sempre in tiro, sempre. Lui e sua moglie tengono alta lo stile della nostra chiesa. Vi amo tanto. Che bello. Grazie. Chiesa, mancano 17 giorni alla conferenza. È cominciato un countdown. Ed è un countdown che fa un po' tremare, vero? Stiamo tremando, però voglio dire solo questo, tra 17 giorni avremo l'opportunità non di vivere uno show, proprio come diceva Mario, non di vivere un'altra conferenza, perché almeno che io abbia contato e che io conosca, ci sono almeno altri 5 eventi bellissimi contemporaneamente alla nostra conferenza a cui io parteciperei perché sono stupendi, ma ho scelto la mia conferenza, ok? Però sono stupendi e in quel weekend proprio Dio lavorerà sulla nazione, sono convinta di questo. Ma perché devi venire alla conferenza se non ti sei ancora iscritto? Beh, io voglio dirti che è buono che tu venga alla conferenza perché sarà molto più bella, molto più piena dello Spirito Santo, molto più piena di sorprese rispetto all'anno scorso, sì? E sai anche perché devi venire alla conferenza? Perché ci sei tu a servire, è vero? Tutti quanti noi siamo pronti per servire. Quindi per chi non si è ancora iscritto, per chi ci segue da casa, per chi ci segue in streaming, per chi mi vedrà domani mattina o dopodomani, iscriviti. Ci sono ancora posti per vivere un tempo straordinario. E sapete come ci stiamo preparando? Un paio di mesi fa eravamo con la squadra esecutiva della conferenza, che vi voglio citare i ministri che fanno parte di questa squadra per onorarli, e sono Luciana, e sono mio marito, Leo Raccanelli che è a casa col bimbo con la febbre, Antonio, Fabio e Melissa e Luigi, sono un team straordinario e stavamo così, no, a pregare, a parlare. E circa 2 mesi fa, no? All'inizio di settembre, ci siamo chiesti, ma come mai la conferenza proprio ora? Perché eravamo tutti ammaccati, tutti spezzati, tutti che non avevamo forze né per pensare alla conferenza. Ci siamo chiesti, Gesù, ma quale timing incredibile, proprio ora, che non abbiamo da dare nulla. E sapete Gesù come ha risposto? Ha risposto così. Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché, diciamolo insieme, quando sono debole... allora sono forte. Lo puoi dire con gli occhi chiusi? Quando sono debole, allora sono forte. Quando sono debole, allora sono forte. Amen? Preghiamo un attimo insieme. Gesù, grazie per la rivelazione di questa parte della tua parola così completa. Ti prego di essere con noi affinché possiamo comprenderla pienamente, secondo la tua volontà, e possiamo cambiare come tu hai deciso. Nel tuo nome, Gesù. Amen. A quanti piace questo verso? Oh, questo è un verso che diciamo, che abusiamo anche un po' nel dirlo, no? Perché a volte lo usiamo bene, altre volte lo abbiamo usato male. E così chiedevo a Dio: Signore, come posso capire meglio questo verso? E Dio mi ha fatto ricordare un episodio che è successo nel nostro curioso matrimonio. Io e mio marito siamo sposati da 12 anni suonati. Yes! E la nostra storia è fatta di tanti momenti ridicoli. Prima o poi ve li racconterò tutti, cominciando da come ci siamo messi insieme. C'è qualcuno che ci conosce e lo sa, da quando mio marito mi ha chiesto di sposarmi e si è inginocchiato e poi ha avuto un crampo, è stato romanticissimo, al nostro viaggio di nozze, passando per la prima volta di nozze, ma questo lo raccontiamo solo nel prematrimoniale, quindi non lo possiamo raccontare qui. Siamo andati in viaggio di nozze, dopo il matrimonio ci siamo sposati, siamo andati in agenzia di viaggio, abbiamo detto facci partire. Dopo 3 giorni abbiamo preso un volo, il primo viaggio disponibile è stato Mar Salam in Egitto. Tutti ci hanno detto wow, andate nella barriera corallina, nel Mar Rosso, stupendo, portatevi maschera, mi raccomando, andate a fare snorkeling, andate a vedere i pesci, sono stupendi. E noi chiaramente siamo partiti senza maschera, senza pinne, senza tubo. Tra l'altro nessuno di tutti e due è proprio un fanatico dell'andare sott'acqua. Io certamente no, abito un po' di più. E quindi sai, primo giorno sei lì sulla spiaggia, bellissimo, wow, romantico, spiaggia stupenda. Eravamo sul Mar Rosso. Cioè, incredibile, è bellissima quella parte del mondo. Sabbia, sai, quelle vacanze di cui hai bisogno sempre, no? Io l'ho avuta una volta ed è bastata per sempre. Comunque, ero lì. E conosciamo queste coppie, no? Io non so perché le coppie che vanno in viaggio di nozze vanno a fare tutti gli sport del mondo. Vabbè, c'era questa coppia che fa, wow, siete venuti anche voi per fare snorkeling? No. Ma non mi dite, sicuro vi siete portati le maschere? Noi, no. Cioè, noi sappiamo nuotare, però non è che proprio siamo grandi. No, dovete per forza andare a vedere la barriera corallina il primo giorno. Il secondo giorno, siete andati a vedere la barriera corallina, i pesci erano straordinari, l'acqua era... No. Terzo giorno, siete andati... No, quarto giorno, ho detto, vi, per piacere, facciamoci prestare una maschera e andiamo a vedere sta barriera corallina. Allora ci prestano una maschera, perché non volevamo fare tante figuracce, non nel chiederle più di uno, vai in Egitto, vabbè. Una maschera, per cui mio marito fa, tieni amore, vai, romantico, no? Viaggio di nozze, vai amore, vai. Quindi io... Bellissimo, no? La voce degli altri, vai, vai a vedere i pesci. Vado in acqua, l'acqua stupenda. E non appena comincio a non appiedare, più o meno, metto la maschera e vado sott'acqua. Primo pesce, secondo pesce, belli, grossi, colorati. Però avete mai visto l'effetto dei pesci con la maschera? Sembrano enormi, sembrano degli squali che vengono verso di te. Allora io comincio a mettere i piedi per terra, sempre con la maschera, con la mano a vedere i pesci, verdi, rossi. A un certo punto si avvicina a questo pesce, sembrava una balena, era enorme, e mi sono impaurita. E quindi che ho fatto? Ho cominciato ad avere un attacco di panico, e ho cominciato a bere tanta di quell'acqua. Non dovete ridere delle debolezze degli altri. Ho cominciato a bere, grazie, veramente, siete proprio rispettosi. Ho cominciato a bere, a un certo punto ho cominciato, sai quella fase in cui sei un po' sotto, un po' sopra? Cioè, io so nuotare, ma in quel momento, e così è arrivato il mio Mitch Buchanan. È arrivato, no, ve lo ricordate Baywatch? Lui è arrivato, correndo, mi ha visto in difficoltà, ha cominciato a correre verso di me, mi ha preso, mi ha messo un braccio dietro, sembrava veramente Mitch Buchanan, mi mette un braccio dietro, ma siccome non ha mai salvato una persona, io bevevo ancora più acqua perché andavo giù. E quindi a un certo punto lui mi fa, non sento, metti i piedi per terra. È inutile dirvi che avevo l'acqua dal ginocchio e stavamo affogando entrambi, perché eravamo lì a bere, a spingerci, e vai, e fai. Tutto ciò, la coppia era sulla spiaggia e ci stava guardando. È stato uno di quei momenti in cui lì capisci, ho sposato l'uomo giusto, uno, e oh, non andrò mai più a fare snorkeling, non mi interessa fare snorkeling. Perché vi ho detto questa storia? Perché dopo 5 giorni dal nostro matrimonio ho potuto comprendere una caratteristica di mio marito che mi ha spinto ad amarlo ancora di più, e cioè il suo senso di protezione. Cioè lui ha fatto di tutto, anche facendomi morire, per proteggermi, per salvarmi. In quel momento di debolezza ho compreso quanto straordinario era l'amore protettivo di mio marito. Quando sono debole, allora sono forte. Ho spiegato bene. Questa è la maniera che Dio mi ha ricordato per capire meglio questo verso. Quando noi viviamo delle fasi di debolezza, allora la sua grandezza si può manifestare di più. Sono le fasi delle nostre debolezze, i momenti di debolezza, i momenti di difficoltà che rendono gloriosa la perfezione di Dio nella nostra vita. E se non avessimo quelle debolezze, se io non avessi rischiato di morire nell'acqua dal ginocchio, non avrei conosciuto la protezione di mio marito. Se io non fossi debole, allora mi priverei della bellezza, della perfezione di Dio. Ti piace questo? È grandioso. Che cosa stiamo dicendo? Benvenuta debolezza. Oh, meno male. Ti hai rilassato? No. Perché quando noi ci chiediamo come stai, non è che proprio la prima risposta che ci viene da darci è «sono debole». La prima risposta che ci diamo è e noi richiediamo «bene bene?» «Sì sì, bene bene». Perché? Perché davanti alla debolezza, noi esseri umani, localizzati in Italia, proviamo molto spesso ad avere due tipi di reazione agli estremi. La prima è quando stai vivendo in una fase di debolezza, ce la devi fare da solo, non lo deve sapere nessuno. Perché? Perché non mi serve l'aiuto di nessuno. Perché non voglio la compassione di nessuno. Aspetta, abbiamo provato a tradurre questa frase in evangelichese. C'è molto di più importante per cui pregare che per me. È vero? Quanto spesso siamo lì davanti al foglio della preghiera e diciamo, vabbè, ma ci sono cose più gravi, no, ma ci sono momenti, no, ma perché devo catalizzare l'attenzione di qualcuno? E questo modo di comportarci, fratelli e sorelle, si chiama orgoglio. Ci piace? No, però è così. L'altro estremo è invece mi lamento sempre. Mi si è rotta l'unghia del piede? Mamma mia, mi si è rotta l'unghia del piede. Sapete questa settimana che cosa è successo in casa Marinelli? Vi sto dicendo che si è rotta la lavatrice. Ragazzi, era come se il Signore fosse tornato e mi avesse lasciato a casa, perché è stata una tragedia. Io avevo la roba sporca, bagnata, tutte le casalinghe che mi capiscono ci sono. Che brutto quando si rompe la lavatrice. Sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo imposto le mani ed è guarita e finalmente posso usare ancora la lavatrice. Funziona senza chiamare il tecnico perché comunque costa. Quindi prega per la tua lavatrice, questo è il messaggio di oggi. Non ci piace chiedere aiuto oppure lo chiediamo troppo. Mi si è rotta l'unghia, mi si è rotta la lavatrice, e ho forato una ruota, sta piovendo, e non trovo lavoro, non mi piace lo stipendio, siamo pieni della lamentela. E quello che produciamo è proprio dipendere dalle attenzioni degli altri. Se gli altri ci danno attenzione, allora ci sentiamo più forti. Se gli altri non ce ne danno, ci sentiamo ancora più deboli. Ecco, questi due estremi non sono buoni. Né quello di essere da soli e combattere da soli, né quello di chiedere sempre, sempre, sempre, anche per le cose leggere. Paolo ci sta insegnando qui a avere a che fare con le debolezze. E la parola debolezza viene dal greco asthenes, non si dice, non è così la pronuncia, però mi perdonerete. E la A, davanti a un aggettivo, è una A privativa. E letteralmente debolezza significa mancanza di forza, cioè quando non hai la forza necessaria per portare a termine quella cosa, quando non hai la forza necessaria per affrontare un altro giorno, quando non hai la forza necessaria per combattere quella situazione o quando non hai la forza necessaria nella preghiera. Quindi questa è debolezza. Quindi per capirci meglio, che cos'è questa debolezza? E qual è lo scopo di questa debolezza? Questi pochi versi ce lo spiegano in maniera precisa. Qual è, di quale debolezza sta parlando Paolo? La Bibbia fa una domanda e si dà una risposta, perché dopo pochi versi, lo abbiamo letto, possiamo rileggere insieme. il primo, no? Non la versione, l'altra, sì. Dice: per questo mi compiaccio in debolezze, ingiurie, necessità, persecuzioni ed angustie. Queste sono le debolezze. Altre quattro parole che ci spiegano lo stesso significato che Paolo sta dicendo prima. Voglio farvi leggere un attimo la versione, un'altra versione, perché è molto esplicativa. E dice: ma egli mi ha detto, no, perché la mia grazia ti basta. La mia potenza si manifesta in pieno in quelli che sono deboli. Ecco perché sono contento di vantarmi della mia debolezza, di essere una dimostrazione vivente della potenza di Cristo, anziché fare sfoggio della mia forza e delle mie capacità. Che bello. Ti piace? Per questo sono contento nelle infermità, negli insulti, nelle privazioni, nelle persecuzioni, nelle difficoltà, perché quando sono debole, allora sono forte, meno possiedo e più dipendo da Lui. Che bello, che bella anche questa versione. La Bibbia spiega che cosa sono queste debolezze e sono un po' diverse da quelle che noi intendiamo. Insulti, che cosa sono gli insulti? Le parole di ingiurie, le offese verso te, verso la tua fede, verso chi sei in Cristo, le necessità o difficoltà. Sono le circostanze che fanno forza su di te, che non hai previsto, che non li hai messi in calendario, ma che accadono senza chiedere il permesso e che devi poi capire come fare. Le persecuzioni. Cosa sono le persecuzioni? Le ferite, abusi o circostanze dolorose o atti di pregiudizio o sfruttamento da parte delle persone a causa della nostra fede, o forse perché appunto sei diverso, non fai quello che gli altri fanno. Queste sono persecuzioni. Ancora, angustie, calamità, possiamo dire anche angosce, difficoltà, problemi. Paolo sta dando qui l'idea che c'è una pressione su di noi, c'è uno schiacciamento su di noi, c'è un peso, ci sono circostanze che tendono a sopraffarci, forse con stress, forse con tensione, forse con tristezza. A queste cose fa riferimento Paolo quando parla delle debolezze. Per cui la differenza nel quando usiamo la parola debolezza è molto chiara con lo spirito è pronto e la carne è debole. Le debolezze di cui sta parlando Paolo non sono le mie propensioni verso il peccato, non è la mia attitudine che ci porta verso il peccato. Quella è la nostra debolezza nella carne, ok? Sono chiara in questo. Quindi non è in quelle debolezze che Gesù si gloria. Certo, possiamo dire anche che nel nostro essere attenti a non peccare Gesù è glorificato. Nel nostro aggiungere la mano di Cristo alle nostre dipendenze, ai nostri peccati, allora lì la sua gloria è anche forte. Il nostro resistere al peccato, allora anche in quello possiamo vedere Cristo glorificato. Ma Paolo fa riferimento ai nostri momenti difficili, alla nostra mancanza di forza davanti alle cose che ci vengono davanti. È a questo che Paolo si riferisce dicendo: la mia grazia ti basta. Un'altra versione mi piace perché dice: la mia grazia è sufficiente. Che cosa vuol dire sufficiente? Che quella mancanza, quel vuoto, quel buco che sarebbe necessario colmare con la nostra forza, col nostro carattere, col nostro darci da fare, che non abbiamo, noi riempiamo con Cristo Gesù. Quella mancanza di poter affrontare le circostanze così come le circostanze richiedono, quella mancanza è uno spazio che viene creato perché Cristo operi nella sua perfezione. Ed è stupendo questo. È per questo che Paolo dice: io mi compiaccio di questo. Io mi compiaccio di questo. Ehi, sai che vuol dire mi compiaccio? Non è compiacersi, ma è la traduzione letterale è: io sono contento delle mie debolezze, io preferisco le mie debolezze, io sto bene nelle mie debolezze, a me piace la debolezza che ho. Non è un po' ridicolo questo? Quanti di noi direbbero: mi piace stare in una condizione difficile, posso vedere l'eroe che c'è qui in sala? Amen, ci sono alcuni. Tanta stima. A me non piace. Non è che mi sveglio la mattina e prego: Signore, ti prego, mandami una circostanza difficile così che tu possa essere glorificato. La mia preghiera in genere è questa: Signore, dammi la forza per affrontare quelle circostanze difficili. E sai che cosa? Dio non risponde creando dei muscoli più forti. Dio mi risponde dicendo: sono io. Sono io. Ti basto io. Ti basto io. Nelle scorse settimane Dio ci ha guidato prima di tutto nel farci capire che abbiamo un potenziale. E poi Mario ha continuato con: sii te stesso. E poi Antonio ha continuato con: Dio ti vuole incontrare. Io oggi vorrei aggiungere un tassello. Dio ti vuole incontrare. Dio mi vuole incontrare. Dio ci vuole incontrare nelle nostre debolezze. Perché? Perché Lui è sufficiente. Perché Lui è quello di cui noi veramente abbiamo bisogno. Così davanti alle anguste, alle persecuzioni, alle ingiurie, non hai bisogno di diventare più forte, non hai bisogno di diventare più coraggioso, non hai bisogno di spaccare tutto, no, hai bisogno di essere più umile perché Lui si è innalzato. Davanti al non ce la faccio, abbiamo bisogno che il nostro orgoglio cali e la Sua gloria si manifesti più grande. È così che il regno di Dio è glorificato. È così che la Chiesa è sana. Perché sai cosa mi fa capire questo verso? Che Dio non si aspetta da noi che noi siamo delle persone performanti sempre. Dio non si aspetta da noi, Dio non vuole questo da noi, che tu sia perfetto, ineccepibile, performante sempre. Sempre col sorriso, sempre con sto bene, sempre con sono forte, sempre con ho fede. No. Dio si aspetta da noi che noi siamo deboli. E sai cosa? Se lo aspetta Gesù, perché non doverlo accettare noi? È molto distante dall'autogiustificazione. Non so se sto spiegando bene. Non è: beh, oh, la carne è debole. Oh, non posso fare niente, sono debole. No, no. Questa debolezza è una debolezza che glorifica completamente il Re. E sai da cosa lo vediamo? Dal fatto che tutta la Bibbia, dall'inizio alla fine, è fatta di persone deboli. Gesù è salito sul monte in Matteo 5 e ha cominciato a dire: beati gli umili di cuore, beati i mansueti, beati i perseguitati, beati coloro che sono forti. No, ha detto: beati gli umili, beati i mansueti, beati i deboli. Perché loro erediteranno il regno di Dio. Il regno di Dio non è mai appartenuto a persone straordinarie. Il regno di Dio è stato portato avanti in tutta la sua parola da persone deboli. Volete qualche esempio in più? Giacobbe, un imbroglione che ha combattuto con l'angelo del Signore, e quello che ha avuto in cambio è stata un'identità nuova, da imbroglione a Israele. Principe. E quello che è successo è che ha avuto un cambio, ha continuato a camminare, sai come? Zoppicando. Facciamo l'esempio di Gedeone. Gedeone aveva una grande guerra da combattere. Sai come? Lui pensava di avere un enorme esercito, di avere le armi termonucleari, e invece non ha avuto né l'esercito e né i fucili. E ci aveva solo tanta paura e ha vinto una guerra. Volete un altro esempio? Una donna prostituta che le è capitato di vivere nel posto giusto, nel momento giusto, ha ospitato le spie nella terra promessa, e indovinate un po', Rab è diventata bisnonna di Gesù. La leggiamo nella sua genealogia. Vuoi sapere perché il regno di Dio non è fatto da persone forti? Perché il regno di Cristo Gesù è il regno di un re che è arrivato a Gerusalemme su un asino prestato e non su un cavallo bianco con tutta l'armatura e con un esercito straordinario. Sai chi era l'esercito di questo re? Persone che avevano rubato, pescivendoli, ragazzini. Questo è il regno di Dio. questo è il regno che noi siamo chiamati a compiere, a portare avanti, a combattere per, a dare gloria. Sai come? Nella debolezza. E Paolo spiega bene. Paolo lo spiega bene perché? Perché la debolezza ha uno scopo straordinario. Paolo sta dicendo lì, se lo leggiamo da versi prima, che ha una spina nella carne che Satana gli ha messo. Molti intendono un'infermità, una malattia, ma Paolo ha chiesto a Dio per ben 3 volte di liberarlo, ma Dio non l'ha liberato e lì gli ha risposto: la mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta. Quale scopo ha la debolezza? Vedere Dio più grande. No, no, Dio non si compiace nella tua sofferenza, Dio si compiace nell'umiltà. Te lo dico di nuovo, prega per le guarigioni, perché Paolo in altre occasioni è stato guarito, è stato morso da una vipera ed era vivo, è stato linciato ed era vivo, ha fatto dei viaggi, l'hanno buttato dal mare, nel mare ed era vivo. Ma questa cosa, Satana voleva usarla per schiaffeggiarlo, eppure Dio ha detto a Paolo: io la uso perché in te si manifesti la mia perfezione. Quindi le circostanze difficili non vengono da Dio, ma possono essere usate da Dio. Perché? Per renderci umili e fare in modo che tutta la sua perfezione, Paolo usa queste parole, riposi su me. In Goia, tu sei contenitore della perfezione di Dio. Tu sei vetrina della potenza di Dio. Tu non puoi essere perfetto, io non posso essere perfetta, ma noi siamo esattamente su questa terra per manifestare al mondo quale potenza straordinaria c'è nel nome di Gesù. Amen? E perché Dio ha prodotto questo? Per glorificare Cristo Gesù. Perché Paolo sta dando queste parole? Per glorificare Cristo Gesù. Quando leggi questo, quando leggi questi versi, quando sono debole, allora sono forte. Io mi compiaccio nelle ingiurie, nelle frustrazioni, eccetera. Perché? Perché la sua grazia mi basta. Perché la sua perfezione è resa grande nella mia debolezza. E quindi di che debolezza sta parlando Paolo? Le debolezze di cui Paolo sta parlando sono esattamente il posto che serve a Dio per manifestarsi con potenza ed è il posto che serve a noi per rimanere umili e vedere la glorificazione di Dio. Per cui benvenute debolezze. Per cui benvenute debolezze. E con questa prospettiva che dovremmo svegliarci la mattina e dire: Gesù, ti prego, togli da me l'orgoglio di essere forte nell'affrontare questa giornata. Togli da me l'orgoglio di performare una conferenza come nessun'altra. Togli da me l'orgoglio di essere sempre perfetta. Togli da me l'orgoglio di non dover aver bisogno di niente. Togli da me l'orgoglio di trattare la mia vita bene. E se c'è bisogno, forse ti chiedo, togli da me questo orgoglio. E alcune volte, sai cosa? Le condizioni complicate ci portano sulle ginocchia. Se non rischiassi di morire nel Mar Rosso, io non avrei imparato la protezione di mio marito. Se non viviamo delle circostanze, è difficile che i nostri occhi possano essere sensibili a vedere come Dio vuole fare nella nostra vita. E allora benvenute debolezze, benvenute difficoltà. E se ti trovi in una di queste, sii gioioso perché ne uscirai non più forte, ne uscirai più debole, ma ne uscirai più umile, ma ne uscirai più pieno della perfezione di Dio, perché è quella che stiamo aspettando, perché è quella che vogliamo. Perché qui non crediamo che dobbiamo fare la chiesa di quelli che si vedono la domenica e sono forti. Noi vogliamo piangere insieme, noi vogliamo combattere insieme, noi vogliamo chiedere insieme a Dio un intervento. Quindi che cosa fare con le nostre debolezze? 3 consigli al volo. 1. Non farti bloccare dalle debolezze. Non farti bloccare dalle debolezze. Cos'è la debolezza? Il tuo matrimonio che non va bene? Non farti bloccare dalle debolezze. Qual è la debolezza di Paolo? La spina nella carne, forse un'infermità fisica, ma si è fatto fermare? No, di certo. Qual è la debolezza della tua malattia? Certo, io continuerò a servire. Non farti bloccare dalle debolezze. Sai perché? Perché quando la debolezza ci blocca, sai che scambiamo il posto di Dio e cominciamo ad idolatrare la nostra debolezza. Perché è la nostra debolezza che ci comunica quello che dobbiamo fare e non Dio. Quindi non farti fermare dalle debolezze. Gedeone non si è fatto fermare dal fatto che non avesse un esercito enorme e che non avesse le migliori armi. Rab non si è fatto fermare dal suo curriculum di prostituta per fare qualcosa per il regno di Dio. Geremia non si è fatto fermare dalla sua tenera età per essere uno dei profeti che ha fatto la storia. No, non farti fermare dalle tue debolezze. Secondo consiglio: se sei in una debolezza, continua a chiedere a Dio di liberarti. Continua a chiedere a Dio di liberarti. Perché? Perché possiamo mettere in moto quella fede. Paolo ha chiesto la prima volta e non è stato liberato. E ha chiesto una seconda volta e non è stato liberato. E ha chiesto una terza volta e ha ricevuto la più grande delle liberazioni. Ha ricevuto la liberazione dall'orgoglio. Ora mettiamoci un po' nei panni di Paolo. Ora magari dobbiamo riposizionarci. L'ombra di Paolo guariva. Ha fondato chiese in tutto il Mediterraneo. È quasi morto, risuscitato non so quante volte. Lo hanno buttato in naufragi, problemi, ed era ancora in piedi. È un po' copotto, inorgoglisci. Ce ne hai motivo per inorgoglirci, no? La terza volta Paolo ha ricevuto veramente una liberazione. Quindi se sei nelle difficoltà, se sei nelle debolezze, continua a chiedere a Dio e metti in pratica la tua fede. Posiziona la tua fede. Posiziona la tua fede perché? Perché non ci dobbiamo dire Dio non mi ha guarito. No, Dio ti risponde. Dio ti risponde. Forse non è come vuoi, forse non è quello che vuoi, ma Dio ti risponde sempre, perché Lui è vicino a noi, Lui è avvicinabile, Lui è pronto a parlarci. Amen. Amen. Terzo consiglio: sii aperto sulle tue debolezze. Sii aperto. Abbiamo i gruppi. Io ho un nuovo gruppo da questa settimana. È stato stupendo. Il mio gruppo è bellissimo. E sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato di quanto siamo state deboli in questi 21 giorni di digiuno. Che bello che non ho avuto nessuna delle persone intorno a me che mi avesse giudicato. Che bello essere in un piccolo gruppo che non ti giudica, con cui puoi combattere. Quindi sii aperto sulle tue debolezze. Non essere aperto sulle tue debolezze di 2 anni fa. Sii aperto sulle tue debolezze di ieri. Perché con quello vogliamo combattere, in quelle cose vogliamo combattere insieme. E sai perché devi essere anche aperto? Perché forse nel tuo dire sono debole, ma sono forte, diventi un esempio per la persona che ti sta ascoltando, esattamente come ha fatto Paolo. Paolo non ci ha nascosto che quest'uomo che ha fondato chiese in tutto il Mediterraneo, che guariva in maniera assurda, è malato e non guarisce. Che devono pensare gli altri? No, Paolo si è smascherato. E sai perché? Perché io posso essere benedetta da questa. Dopo 2000 anni, questa confessione mi benedice ancora. Ecco perché abbiamo bisogno di essere aperti. Perché la nostra confessione di debolezza benedice gli altri nel trovare quell'umiltà giusta perché Dio venga glorificato. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Ecco come faremo la conferenza. Una conferenza di chiesa tutti deboli. Ci piace? Certo è che io non voglio mascherare la mia debolezza, perché il mio mascherare la debolezza non benedice gli altri, non glorifica Dio e non mi rende umile. E io non voglio essere orgogliosa. Chiesa, no. perché l'orgoglio precede la caduta, come è scritto in Proverbi, ma l'umiltà precede la gloria. E io voglio vedere la glorificazione di Dio. Io voglio vedere Dio che interviene in maniera perfetta, grandiosa nelle mie debolezze. E non lascerò che l'orgoglio blocchi questo. No. Amen. Quindi se sei debole, benvenuto a casa. Se non sei debole, te ne puoi andare, no, sto scherzando. Benvenuto, benvenuto, con le tue debolezze, con le tue difficoltà. È così che diventiamo una chiesa forte. Amen. Andiamo a mettere un braccio sulla persona che abbiamo accanto, anche se non la conosciamo, però stiamo accanto. Chiedo al gruppo di salire intanto. Vorrei fare un appello diverso stasera, se me lo concedete. È un po' scandaloso, fatemelo dire così. Quando Dio ha parlato di umiltà ad un uomo che ha fatto la storia, gli ha chiesto di togliersi i calzari, perché quello che gli stava per dire era straordinario. E questo era Mosè in Esodo 3, quando Dio ha chiamato Mosè. Ha detto, togliti i calzari, perché il luogo che, su cui hai i piedi è sacro. Bene, la perfezione di Dio è sacra. E il toglierci le scarpe, inginocchiarci, è una confessione di umiltà a Dio. Allora io ti voglio chiedere questo oggi. Se hai intenzione di umiliarti davanti a Dio, perché Lui venga glorificato, fai un passo. Metti le tue scarpe sul palco. Lo so, non hai le calze giuste, lo so, ti fa schifo camminare per terra, lo so. Però fallo come atto di fede. Io voglio essere umile. Amen. Andiamo a pregare insieme. Gesù, grazie, perché la tua perfezione è grandiosa, perché la tua gloria si manifesta perfetta nelle mie debolezze. Gesù, grazie che non mi chiedi di non essere me stessa, ma riempi ogni mia debolezza con la tua grandezza, con la tua perfezione. Gesù, grazie che non mi chiedi di essere perfetta, perché non serve, perché sei tu il perfetto. Gesù, grazie che non ci chiedi come chiesa di essere una chiesa perfetta, perché non serve, perché tu basti, perché tu sei sufficiente. Nel tuo nome, Gesù, io ti ringrazio perché hai ispirato questo messaggio al mio cuore, al cuore della nostra famiglia, e ti prego, Signore, che questo possa essere un messaggio che invade non solo la nostra chiesa, ma io lo prego profeticamente ora, mentre ci prepariamo per lavare i piedi a tutte le chiese in Italia. Ti prego che questa umiltà possa scorrere in tutta la nazione. Prego che un nuovo messaggio di umiltà possa scendere nel nostro cuore per essere umile alla tua presenza, alla tua volontà, nel tuo nome, Gesù. Amen. Mentre teniamo le luci basse durante il canto, se vuoi fare questo passo.